Domanda 1. Quando le anguille abbandonano i nostri fiumi e i nostri laghi? 1. Quando viene la primavera. 2. Quando si avvicina il momento in cui devono deporre le uova. 3. Quando ne hanno voglia. 4. Quando viene l'inverno. Domanda 2. Quale oceano le anguille attraversano? 1. Atlantico. 2. Indiano. 3. Pacifico. 4. Glaciale Artico. Domanda numero 3. Il Mar dei Sargassi come si presenta? 1. È una zona d'acqua purissima. 2. È un mare con molte alghe. 3. È un mare molto pescoso. 4. È una zona piena di coralli e rocce. Domanda 4. Cosa fanno le anguille dopo aver deposto le uova? 1. Tornano verso i nostri fiumi e i nostri laghi. 2. Vanno verso i fiumi e i laghi americani. 3. Accompagnano i loro piccoli nel viaggio di ritorno. 4. Scompaiono finendo sul fondo del mare. Domanda numero 5. Quando le anguille nuove lasciano il Mar dei Sargassi? 1. Quando viene l'inverno. 2. Quando sono diventate adulte. 3. Subito dopo che le uova si sono aperte. 4. Quando il tempo di deporre le uova. Domanda numero 6. Che cosa fanno le anguille nate da madri americane? 1. Vanno nei fiumi e nei laghi americani. 2. Si dividono in una parte che va in America e una parte che viene da noi. 3. Rimangono nel Mar dei Sargassi. 4. Scompaiono nelle profondità marine. Domanda numero 7. Quanto tempo impiega un'anguilla per andare dal Mar dei Sargassi fino ai nostri fiumi? 1. Pochi mesi. 2. Alcuni anni. 3. 3 settimane. 4. Un anno. Domanda numero 8. Quanto è grande l'anguilla che inizia il viaggio dal Mar dei Sargassi? 1. È molto lunga e stretta. 2. È lunga metà di un'anguilla che ha raggiunto il massimo dello sviluppo. 3. È più piccola di un pastello da disegno. 4. È grossa e tozza. Domanda numero 9. Le anguille si riproducono? 1. Nei fiumi. 2. Nei laghi. 3. In tutti i mari. 4. Nel Mar dei Sargassi. Domanda numero 10. Quante volte le anguille depongono le uova? 1. 3 volte nella vita. 2. Tutti gli anni. 3. Una sola volta nella vita, 4 tutti i mesi.